questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Sox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Movimento di Vidal dalla parte opposta, Matri, Roncaglia, Vucinic, Mirko! Vucinic 1-0! Splendida conclusione di Vucinic. Rientra sul destro, Alvarez ancora a sinistro, Alvarez mette dentro, poi c'è la conclusione di Freddy Guarin e l'Inter è in vantaggio al 18° minuto. Guarin dopo una grande azione di Ricky Alvarez. Ciao a tutti, Franco Piantarini, autore di questo programma, oggi Pietro Lacorte in regia. La luna del campionato ha tante facce e abbiamo deciso che oggi sarà un lunedì da tifosi, quindi preparatevi, 800 24 00 24, numero verde, perché di luna ce n'è tante, da quella di Fiere dell'Inter a quella di Miele tra, beh, esemplifichiamo, Seedorf e Balotelli o Seedorf e il Milan tutto, alla faccia di Allegri. Luna rossa per Cassano e Carolina per quel tweet, se volete, ma anche luna rossa per Bologna, luna storta, e non mi spiego perché, per i giocatori della Lazio che ieri, scena più curiosa della domenica, non esultano dopo aver pareggiato a Udine. Luna buona per Matri. Hai qualche altra luna, Pardo? Ce n'ho tante di lune. Ce n'hai tante? Comunque, sì, come le opinioni, ho queste e come dice mio amico Luca Ussia di Rizzoli, se non vi piacciono ne ho delle altre. Quindi. Ne ho delle altre. Ma intanto la notizia del lunedì è l'antidepressivo che l'Inter prende, perché la notizia di oggi è questo scambio alla pari tra Vucinic e Guarin. Si farà entro sera. Vucinic ha già svuotato l'armadietto, Guarin avrà fatto altrettanto. Quindi la Juve, che invece di Prozac non ne ha bisogno, ha un centrocampista in più. Ma chi lo fa l'affare? Questa è una bella domanda, perché onestamente mi sembra che Guarin alla Juve serva poco. Già il fatto che è un buon giocatore sicuramente e che ha una quotazione di mercato eventualmente molto interessante, no? È un giocatore che comunque piaceva al Chelsea. Era l'unico uomo vero mercato, sì, un po' ranocchia, ma insomma l'uomo vero mercato a disposizione dell'Inter per poter far cassa, quindi il valore del ragazzo non si discute. Vucinic mi sembra che stia diventando un lusso. Poi per operazioni contabili lo iscrivono a bilancio come plusvalenza notevole. Certo. E Vucinic ovviamente era un po' indietro nelle gerarchie in un momento in cui giocano con regolarità Tevez e Llorente. Questo sembrerebbe chiamare per una permanenza di Quagliarella alla Juve, che a questo punto scala una posizione. Insomma, ti dico la verità, nessuna delle due mi sembra che svolti con questa trattativa, sinceramente. Cioè, non, il centrocampo della Juve è talmente forte che non mi sembra abbia bisogno, sì, di Vucinic. E l'Inter secondo me deve migliorare soprattutto in mezzo al campo. Detto, sì, questo, però anche in attacco, Pierre, sì, perché se Belfodilla se sta bene fisicamente, trova regolarità, è chiaro che è un giocatore che accresce il tasso tecnico dell'Inter e diventa un'implicita sconfessione del mercato di quest'estate, sì, quando viene mandato via Cassano per prendere Belfodil, ma anche esplicita, perché se Belfodil non viene considerato all'altezza verrà venduto in Inghilterra. Icardi è per il momento un tronista infortunato. È chiaro che all'Inter, no, ma è chiaro che all'Inter serviva, cioè, secondo me Vucinic serve più all'Inter in questo momento di quanto Guarin non serva alla Juventus. Però tra i due la sensazione è che Toir abbia fatto un regalo al figlio juventino. Dici? Non lo so. Ti ripeto, ma poi stasera tra l'altro faccio il primo di 28 promo che farò in questi 45 minuti per Tiki Taka stasera 23:35 Italia 1, perché avremo Mazzarri oltre a Mandorlini e a Rolando Bianchi, quindi sentiremo insomma Mazzarri ospite in studio, ci dirà tutto insomma di questa trattativa. Evidentemente a me sembra che Vucinic in questo momento risolva un problema dell'Inter più di quanto Guarin risolva un problema della Juve, perché la Juve non ha problemi, questa è la verità. Insomma, cioè, quel centrocampo lì già è lungo di uno, nel senso che è già uno spreco vedere magari Marchisio in panchina o in qualche circostanza Pogba in panchina o addirittura Pirlo. Però può essere prospettiva, perché così viene letta da molti. A me sembra così la sensazione che i tifosi dell'Inter non siano così contenti di questo scambio. Lo so. Sensazione, poi ce lo diranno loro 8-0-0-24. Lo so, anche perché 0024. L'Inter si gioca praticamente l'unica vera fish che aveva, sì, per arrivare a Vucinic. Sì, però la domanda è: ma questo scambio chi lo ha deciso all'Inter? A corollario ci sono le parole di questa mattina di Moratti, che dice: ho sentito tutto ieri, è molto dispiaciuto ovviamente per la situazione dell'Inter. Credo sia necessario che venga qui, e lo farà entro la fine di questa settimana. Serve molto ai giocatori avere di fronte una persona che ci sa fare, sia responsabile, da una forza diversa. Io non credo di avere fatto molto in questo periodo. Credo ci sia questa necessità perché risponde alle esigenze di marciare insieme, esigenze che Tuir conosce perfettamente, eccetera. Moratti dice queste cose e la mia domanda resta: ma chi lo ha deciso questo scambio? Paradossalmente l'Inter, è vero, deve operare sul mercato, però il mercato su cui dovrebbe operare, perché il grande buco, il grande punto interrogativo, è chi è l'uomo forte di Tuir in questa Inter. Quindi il primo colpo sarebbe sul mercato dirigenti, magari è già stato fatto con Sabatini, non lo so, però è un colpo in divenire. In questo momento non c'è nessuno. Sì, assolutamente. La domanda è la madre di tutte le domande di questo momento nerazzurro, che dura da un po', devo dire la verità, perché poi a Tuir si possono sicuramente rimproverare delle cose, un approccio troppo prudente dal punto di vista del mercato, ma non bisogna dimenticare che la squadra che ha a disposizione in questo momento Mazzarri, che secondo me è il meno colpevole di tutti, e lo ribadisco con il concetto che ho lungamente espresso, è una squadra comunque figlia degli ultimi anni della gestione di Moratti, insomma, quindi è chiaro che Tuir su quello è innocente. Tuir adesso dovrebbe riuscire a dare una speranza, una prospettiva, un entusiasmo all'ambiente, ai tifosi, che fino a questo momento non è riuscito a dare. Senti, ma Secco, io vedo un sacco di messaggi che mi scrivono Guarin libera Pogba, eccetera eccetera eccetera. Siamo così sicuri che sia questo? Cioè, Guarin è chiaro, proiettato sul futuro, ma libera Pogba o libera Vidal? Perché il vero colpo per la Juventus in questo momento, se uno deve andare via, sarebbe quello di magari di incassare moltissimo per Vidal, che è in questo momento una superstar, e magari riuscire a tenere il francese. Guarda che pure Pogba è una superstar, eh? Sì, io credo, lo so, che le due valutazioni siano tutte e due molto alte per motivi diversi. Vidal chiaramente è più grande ed è più pronto, Pogba è più giovane di prospettiva, però ha già dei colpi straordinari. Sono scemi i nostri ascoltatori, gente sveglia. È chiaro che questa ipotesi c'è, anche perché Agnelli l'aveva più volte dichiarato, e fa parte della logica del calcio di oggi, che riguarda tutti, riguarda anche la Juve, che è la società in Italia che sta messa meglio, con lo stadio di proprietà, con le prospettive più solide, con meno necessità di investire sul mercato. Però anche la Juve, evidentemente, se arriva il Paris Saint Germain o il Manchester City col valigione, insomma, è difficile dire di no. La Roma ci ha fatto una fortuna con questa filosofia quest'estate, vendendo molto bene Marquinhos, vendendo bene Osvaldo, vendendo benissimo Lamela. Sabatini fuori classe, non si discute. Ma qui capito, purtroppo quando non ci sono i danè, come diciamo noi milanesi. Sì, soprattutto tu milanese. Noi milanesi, siamo molto milanesi. Salutiamo tanto Bruno Longhi che abbandona l'ufficio. capito, quando non ci sono tanti soldi è chiaro che devi inventare delle cose. Sì. E ci sono dei compratori eccezionali. Per cui se tu ti imbatti nel signor Paris Saint-Germain, questo è nella logica del mercato, è nella logica del momento italiano. Però io continuo a domandarmi, ma Vidal o Pogba? Perché detto che la Juve non li cederà entrambi, detto che entrambi hanno una quotazione spropositata di mercato, perché non dire prova a tenermi il francesino, che è ancora estremamente giovane, Vidal è al top, tra i due io proverei così. Palla messa dentro per Antonini, che salta, trova il gol in Genoa, Antonelli l'ultimo a toccare, 1-0 Genoa a 8 dalla fine, Antonelli fischia Rizzoli, dopo 20 anni il Genoa torna a battere l'Inter, lo fa con un gol di Antonelli. No, me la prego, guardi, mi sono promesso l'ultima volta di non commentarle. Se le commentate voi in studio mi fa piacere, accetto poi insomma tutta gente esperta di calcio, quindi valutatelo come volete, i regolamenti le sapete tutti, non voglio più parlare fino alla fine, perché poi alla fine se sbagli 6-5 palle gol, poi oggi quando sbagli 5 palle gol può esserci, non lo so, può esserci anche un errore dell'arbitro, vuol dire che era scritto così, insomma ci sono dei momenti in cui bisogna dire così e pensare così, poi se volete valutarlo voi, valutatelo, preferisco non commentare. Luna di fiele tra Mazzarri e l'Inter, tra l'Inter e Tuir, tra gli interisti e ciò che resta della dirigenza. Poi curioso come le palle gol siano state 5 a Sky e 7 poi nel successivo intervento di Mazzarri a Mediaset. Mi pare sia andata così. Stasera allora Tiki-Taka sono 14, se vale questo principio. Come, no, però invece, come minimo 10. Invece guarda, c'è una cosa della strategia di Mazzarri che stasera verificheremo ovviamente a Tiki-Taka, mm-hmm, perché lo coinvolgeremo sugli aspetti arbitrali, ma ho la sensazione che lui abbia cambiato completamente strategia e secondo me fa bene. Sì. Nel senso, credo che si sia reso conto che continuare a parlare di queste situazioni arbitrali sia di fatto un modo indiretto per dare un alibi alla squadra. Quindi ma la mia certo, sensazione è questa, certo, tanto si è reso conto certo che le cose non cambiano. Io l'ho detto settimana scorsa, lo ribadisco, credo che noi che invece valutiamo le cose dall'esterno, qualche punto in più all'Inter, per onestà dobbiamo darglielo, perché gli episodi sono stati veramente tanti. Questo è sicuro, però Mazzarri si è reso conto, non ci credo, no, cioè, si è reso conto di aver esagerato battendo su questo tasto, perché ha creato un gigantesco psicodramma coinvolgendo i tifosi, l'ambiente e creando un enorme scudo per le responsabilità dei giocatori, non necessario. Hai ragione, Mazzarri non è pirla, così come Mourinho, e ha capito questo, magari un po' in ritardo. Michele Dalai, buongiorno. Buongiorno. Però. Oddio, buono giorno, insomma. No, ma dimmi, Guarin Vucinic, da tifoso interista, sei contento oppure no? No, è che se è uno scherzo non fa ridere. Non è uno scherzo, però fa abbastanza ridere. Ecco, allora, mettiamola così. No, non solo non sono contento, mi sembra una delle mosse più scellerate, che solo se fosse... due secondi dopo vorrei avere la notizia di Hernanes all'Inter, ecco, cioè, preparatemi qualcosa di buono. No, Hernanes no, il compenso d'Ambrosio. Ecco, perfetto. No, nel senso di è uno scambio che ha veramente poco senso. Soprattutto questa squadra doveva ricostruirsi su alcuni talenti, magari soffrire, accettare una fase di transizione. Però credo che questo inquadri un po' il problema, il vero problema che, mi permetterete di dissentire, non è Mazzarri, né Toir. Il problema sono le condizioni disastrose in cui Toir e Mazzarri ereditano squadra e società. E Mazzarri fa del suo meglio per i primi mesi per mascherare alcune falle a livello tecnico, organizzativo, e Toir invece nei primi due mesi, credo che al di là della rimproverabile, quella sì, assenza fisica sul luogo e del fatto di non aver delegato, ma probabilmente era anche difficile trovarlo a qualcuno il ruolo di... ma questo è il peccato originale, però perdonami Michele, perché anche questo scambio che tu definisci uno scherzo o comunque qualcosa che fa ridere, chi lo ha deciso? Ecco, esatto, qui c'è un tema molto forte, cioè le competenze calcistiche di Toir, credo che al di là della naturale trasporto e simpatia umana che l'uomo mi ispira, e sono molto poco d'accordo con Capello o con chiunque cerchi di trovargli delle responsabilità dal punto di vista delle responsabilità che si è assunto, invece il fatto che manchi una guida dal punto di vista anche solo tecnico all'Inter, che coordini un po' questa fase disastrosa, è un po' una sua responsabilità, quella sì. E sì. Questo scambio l'hanno deciso Branca e Ausilio, che sono artefici di tante delizie per noi tifosi interisti negli ultimi anni, ma al di là di questo... guarda, la questione è molto semplice. Io credo che all'Inter, e lo ripeto, ci siano in questo momento problemi veramente molto più grandi dal punto di vista economico, che sono nascosti o di cui noi non vogliamo prendere atto perché viviamo della grandeur, della meraviglia, del continuo scialacquare di Moratti. No, ma ci sta, ma ci può anche stare, i tifosi sono anche disposti ad accettarlo, tu me lo vuoi confermare o smentire, però Pier, ci sono è vero questi problemi, però conviene fare chiarezza, cioè conviene dire ok, questa squadra, questa Inter merita la classifica che ha dal punto di vista del valore assoluto. Sarà così per n stagioni. Opereremo secondo queste strategie. Manca sempre il punto cruciale del rappresentante di Toir in Italia. Moir, hai visto? Moratti, Toir, mi viene anche questa. Mi esce anche è questa. Un po' Morir, sta dicendo. Toratti, che è un Toratti. Po' Morir. Sì. Il signor Toratti. Mi sembra che non ci sia no, tantissima questo chiarezza. Questo è un tema no? fondamentale. Questo è un tema fondamentale, nel senso che comunque le responsabilità, anche simboliche, sono importanti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quello che ha detto Moratti stamattina, è chiaro che lui lo dice da presidente. Da ex presidente padrone, molto presente tutti i giorni davanti ai microfoni, spesso alla Pinetina, per Toir è un po' più difficile questo discorso, però è evidente che c'è bisogno di una presenza. Se non ci può essere la presenza fisica del presidente, ci deve essere però un uomo molto forte di società che rappresenti questa interfaccia fra squadra e dirigenza e proprietà, altrimenti è un casino. Detto questo, poi, siccome io l'Inter, come tutti quelli che fanno questo lavoro, la sto vedendo, secondo me nelle ultime due partite c'è anche una sana componente di sfiga, sana per modo di dire. Ma non solo nelle ultime due, probabilmente anche in quelle precedenti. Ieri sinceramente a Genova era una partita bella, da tripla, che poteva finire in tutti e tre i modi. Inter-Chievo sappiamo bene com'è andata, insomma io credo che appunto che ci debba essere onestà intellettuale. Io l'ho vista malissimo l'Inter nel mese precedente, l'ho vista malissimo a Roma con la Lazio, l'ho vista malissimo Udine, secondo me questo mese ci sono dei segnali timidi di miglioramento, altrimenti poi si diventa schiavi del risultato e secondo me invece abbiamo la possibilità di guardare oltre. Intanto su Twitter gli interisti si chiedono Guarin per Vucinic più Conguaglio, perché è quello di cui si discuterà oggi pomeriggio quando ci sarà l'incontro tra Juventus e Inter per la firma di questo scambio. L'Inter probabilmente chiede un Conguaglio e i tifosi dell'Inter si domandano ok, ma Conguaglio in che ruolo gioca? Servono giocatori. Esatto. O forse è Guaglio, nel senso Conguaglio, sì. Vabbè, chiedo scusa. No, va bene. Michele Dalai, per chiudere con te, che impressione ti ha fatto, che sensazioni ti ha dato vedere Gasp che si toglie questo sfizio? Ma guarda, io le dichiarazioni di Gasperini le trovo una delle cose più incredibili della storia dell'umanità calcistica. Quindi, addirittura? No, ma nel senso che è talmente ridicolo tutto posto, capiamo, nel piatto in cui si è mangiato in qualche modo. E si era dimostrato un signore andando via, devo dire, delle dichiarazioni del mese successivo. Poi evidentemente nessuno riesce a esserlo per un periodo troppo lungo. E secondo me le cose che ha detto io sono veramente di una stupidità enorme, ma te lo dico proprio molto, molto schiettamente. Quindi la rivincita di ieri, diciamo che nel fango, in una partita così combattuta e poi alla fine anche così bella, perché l'abbiamo persa per una scemenza, ma si poteva vincere in tanti modi. Non avesse parlato, si fosse portato a casa quella rivincita, l'avrei stimato molto di più. Sono abbastanza d'accordo, ma non sembra che abbia detto delle cose, clamorose. Però delle cose che si poteva risparmiare, Pier. Probabilmente delle cose sì, che. Ma sì, però insomma, semplicemente detto che la storia dell'Inter degli ultimi anni non è stata una storia soltanto di trionfi, ci sono stati anche lunghe pause. Secondo me il punto di fondo di Gasperini è che lui si sente piccato perché è stato trattato come fosse un pirla. In questo ha ragione. Tutto sommato, visto quello che è successo dopo di lui, gli allenatori che si sono avvicendati dopo di lui, forse il giudizio deve essere visto. È anche vero che poi Gasperini ha fatto anche male a Palermo prima a sua volta di essere evidentemente lui ha questa dimensione. A Genova ci deve essere qualcosa alla macchina. Scusate, per chiudere questa vicenda, il mio intervento su Gasperini, temo che il problema sia sempre lo stesso, cioè che affrontare il tema Calciopoli come spartiacque e continuare a usarlo e a riportarlo al centro di qualsiasi conversazione riguardi l'Inter o in genere il calcio italiano. No, più che altro, Michele, io sono abbastanza stufo che venga tirata fuori questa storia, mo basta, no? È questo il senso del discorso. Poi che Gasperini si è arrabbiato perché è stato trattato, ci sta, che volesse prendersi una rivincita, ci sta. Però ogni volta che c'è almeno che si trovino degli argomenti nuovi, no? Se si vuole fare polemica con questa basta, perché francamente diventa ho capito che è un evergreen, ma alla fine diventa molto banale. Io credo che i ragazzi possano fare meglio. Grazie, sì, Michele Dalai. Stasera tiki-taka Dalai, c'è anche la tiki-taka. Alimentazione equilibrata. Ci sono tutti. Non mi arriva pesantissimo. Stasera siamo 26. Ma quanti ce ne stanno? Pardo. 27. Mazzarri, Mandolini. Fai la panchina lunghissima. Esatto. Giocati in 50, vabbè. C'è Ulisse che scrive che Conguaglio, quello che l'Inter vorrebbe nello scambio Guarin Vucinic, che è fatto, perché Vucinic ha svuotato l'armadietto, ha salutato i compagni, Guarin si è messo d'accordo con la Juventus, quindi l'accordo c'è già, oggi pomeriggio verrà ufficializzato. Bene, Ulisse scrive che Conguaglio gioca nel ruolo di D'Ambrosio. Poi c'è una ridda di storie arbitrali, di manie di persecuzione, eccetera. Io credo che sia reale il momentaccio dell'Inter con gli arbitri, perché è così. Non credo che sia doloso, credo invece che sia un gigantesco alibi che impedisce anche agli interisti stessi di vedere le cose come stanno. Marco da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Ciao, dimmi. Niente, io ho chiesto di intervenire per, vabbè, per questo famoso scambio Vucinic e Guarin. Sì. Sono tifoso della Juve, devo dire la verità che la cosa non mi alletta tantissimo, nel senso che se proprio Vucinic era da vendere, io avrei provato a venderlo a una squadra estera e non a rinforzare una squadra che, vabbè, quest'anno non va molto bene. Ma appunto, ma è un competitor l'Inter, perché vale anche il discorso opposto, no? L'Inter che rinforza la Juve, ma mi sembra che giochi in un campionato diverso in questo momento. Sì, no, infatti, però sì, non mi, allo stato attuale non lo vedo molto bene inserito Guarina nella squadra della Juve, quindi per quello io da un lato appunto riposti una come l'Inter, dall'altra Guarin non lo vedo molto inserito, ecco perché io personalmente non l'avrei fatto. Pierluigi, uno scambio che non piace a nessuno, né agli interisti né agli juventini. Sì, è uno scambio, ripeto, la Juve in mezzo al campo non ha problemi, quindi Guarin ad oggi, indipendentemente dalle prospettive future di possibili cessioni, ad oggi è uno che va nel mucchio a giocarsi una maglia da titolare, ma non mi sembra esattamente un rinforzo così decisivo. E Vucinic per me è un gran giocatore. Anche per me è un gran se giocatore. Sta bene, è un gran, se sta bene fisicamente, trova continuità. Ma poi è esattamente quello di cui l'Inter tecnicamente ha bisogno. Secondo me tecnicamente Vucinic è un giocatore un pochino più importante di Guarin, con tutto rispetto per Guarin. Però è anche vero che è una coperta corta, nel senso che Guarin, ribadisco, era uno dei pochissimi giocatori con i quali l'Inter poteva fare cassa, e comunque è uno che lì in mezzo nell'Inter oggi è un titolare fisso, quindi sono d'accordo. Faccio fatica a inquadrarla questa operazione. Pietro da Milano, qual è la sua carica? Sì, buongiorno, io sono il vicepresidente del primo Interclub di Milano come numero di soci. Quindi parla istituzionalmente. Ok. E parlo, diciamo, a nome della maggior parte dei nostri soci. E cosa dice? Sullo scambio Vucinic-Guarin non siamo assolutamente d'accordo. È vero che Guarin poteva dare molto di più alla causa, ma è vero anche che forse è l'unico giocatore di classe che abbiamo nell'organico. Detto questo, Vucinic è un ottimo giocatore che ha passato comunque la trentina, si poteva provare ad andare a fare un acquisto cash, ma assolutamente mai fare un cambio con la Juventus dandogli il nostro miglior giocatore, quindi non condivido io in primis, ma anche tantissimi nostri soci. Quindi, un'ultima cosa volevo aggiungere, che siamo in attesa di capire un attimino quali sono le intenzioni del presidente Toir. È vero che Moratti aveva fatto da garante, questo, diciamo, lassismo da parte di Toir, che vive la maggior parte della sua, del suo operato dall'altra parte dell'Europa, non dà tranquillità e non dà stimoli alla causa e ai giocatori in particolar maniera. Siamo in attesa di capire come si vorrà muovere, eventualmente anche per prendere delle decisioni di contestazione chiaramente pacifiche e educate, ma comunque ferme, contestazioni ferme, la decisione sarà questa. Quindi parlo di intervento molto istituzionale di Pietro, vicepresidente dell'Interclub Milano. Lo registriamo, è un punto di vista, ma ripeto, qua, a parte che nel calcio non c'è mai il giusto e lo sbagliato, è il regno della soggettività. Su questa vicenda Vucinic-Guarin, secondo me, ancora di più, nel senso che non c'è una storia che è nettamente migliore dell'altra. Per me è molto difficile dire a priori chi ha ragione e chi sta facendo l'affare. Senti Pier, parliamo di altro. Giornata di ieri, piena di temi, no? Tra poco parliamo anche della luna di miele, che è quella rosso-nera. Io però ho bisogno di chiederti cosa ne pensi di quel tweet di Carolina Cassano, perché ieri Antonio mi è piaciuto: dedico il gol al Parma che mi sopporta. Carolina twitta: in culo a tutti, grande amore mio, numero uno, sempre comunque 99, top. Beh, diciamo un po' colorita. Che devo dire? No, ma Carolina è una ragazza dolcissima, a parte tutto, lo posso dire perché la conosco, è una ragazza dolcissima, ha un po' il carattere, ha un po', insomma, anche lei il gusto della cassanata, nel senso che comunque non è la prima volta che esprime il suo punto di vista in maniera abbastanza colorita. È chiaro che Twitter è uno straordinario generatore di polemiche, insomma, sì. Lo stesso ricordate Rooney quando disse che Pepe era un delinquente per un intervento, sì, durante un Real Madrid-Barcellona. Rooney era davanti al televisore, cioè il tweet, a differenza delle interviste o dei comunicati stampa, è una cosa distinta, no? Che sì, ti può partire magari in un momento in cui ti girano particolarmente le scatole. Penso che secondo me bisognerebbe fare la patente per Twitter, eh? Cioè, dovrebbero mettere l'esame. È bello per questo, perché se noi siamo giornalisti e cerchiamo, parole grosse, giornalisti, e cerchiamo quindi la verità, che è una parola ancora più grossa, cioè cerchiamo, sì, comunque dei punti di vista anche forti, però veri, non diplomatici, e alla fine va bene così. È chiaro che io non penso che Carolina sia pronta ad argomentare per mezz'ora su quel tema, sì, non penso. Quindi che, ha detto la prima cosa che gli è venuta, gol, le, sì, è roduto abbastanza il cosiddetto e quindi ha fatto sta cosa, insomma, certo. Ma ascolta, ma invece si può essere più eleganti, questo sicuramente. Si può fare. No, invece mi è piaciuto Antonio che ha detto: lo dedico al Parma che mi sopporta. Quella è stata carina. Ma guarda, io posso dirti una cosa, questo, sì, però lo voglio dire. Prima di tutto questo mega casino, il mercato, le, sì, voci, la Samp, eccetera, la Fiorentina, io ho certezza che Cassano stia bene a Parma. Cioè, no, ma io ti credo, ti credo. Ed è una storia, fammi fare un attimo l'avvocato difensore, veramente, anzi, un'altra volta. Ecco, è una storia di successo di questo campionato, eh? È una storia di successo di questo campionato. Siamo arrivati a 8 gol. Ma nessuno lo mette in dubbio. Tra l'altro, quello di ieri particolarmente bello. Nessuno mette in dubbio tutto questo, nemmeno che si trovi bene lì. Però per la cronaca, il suo nome è stato accusato alla Fiorentina, alla Sampdoria, alla Fiorentina. È venuto fuori questo micro macro casino. Io voglio parlare di una luna di miele invece adesso. Petagna lo controlla ancora, Petagna resiste col fisico in area di rigore, torna da Kakà che ha perso l'equilibrio, prova a lottare sul pallone, Kakà, calcio di rigore per il Milan. Balotelli, Balotelli, il primo gol dell'era Seedorf, Milan in vantaggio. Giornate molto intense, sono state giornate molto intense, ma diciamo abbiamo lavorato, abbiamo fatto tutto quello che si poteva in questi giorni per portare un cambiamento mentale, emotivo, con un approccio diciamo sull'allegria del gioco, sulla gioia di giocare, sul coraggio che è fondamentale, di rischiare anche qualche volta, qualche passaggio, qualche dribbling, qualche pressing in avanti, eccetera. Quindi è stato un discorso più focalizzato su un shift mentale, insomma. Un grande numero 8 della storia del Milan, non è Rijkaard, non è Ancelotti, non è Seedorf, ma è Giovanni Lodetti. Ciao Giovanni. Ciao, ciao e buona giornata a tutti. Ma lo shift mentale di cui parla Seedorf tu l'hai capito? Giovanni, non te l'ha mai detto nessun allenatore ti ha detto dobbiamo fare uno shift mentale, no? No, no, però credo che usa una parola che mi piace molto, insomma, che è quella del divertirsi. Dell'essere contenti di giocare, insomma, ecco, di non drammatizzare sempre su tutto e di essere un pochino più disinvolti e tranquilli, insomma, questo hai ragione, perché il Milan mi sembrava una squadra e mi sembra tuttora una squadra molto triste. Sì, anche perché il mondo del calcio, che pure in questo momento qui hanno tutto confronto agli altri che non hanno niente, eppure non lo so, si chiudono le loro cuffie e sembra che debbano andare sulla luna da un momento all'altro, no? Dunque non si sa effettivamente che situazione stanno vivendo, però credo che Seedorf voglia effettivamente, insomma, dare un po' una svolta a questa situazione che si era creata pericolosissima e che magari, chissà, qualche cosa di più si può effettivamente avere. Non dobbiamo avere certamente e non dobbiamo illudersi più di tanto, né? Sì, Pierluigi Pardo, sembra che Balotelli e Seedorf si amino, hai visto ieri, no? Beh, per te, bravo tu, eh? Se è per questo Balotelli ha pianto anche che è dato via Allegri, no? Però cosa vuoi? È un ragazzo sensibile, cosa ci vuoi fare? Però non ha fatto niente per tenerlo qua, insomma. No, in compenso ha dedicato la vittoria a Seedorf. È Pier, assolutamente non male, ma però insomma io ti dico che so per certo anche privatamente che Balotelli era molto legato ad Allegri e non ci sono dubbi, e quell'immagine lì è un'immagine forte, chiaramente un'immagine mediatica, simbolica, sembrava proprio io ho scelto te, no? I want you, sembra l'immagine del poster famosissimo, sì. E c'è tutto lì dentro, c'è il punto di partenza del nuovo Milan, quindi al netto del marketing, però insomma se il Milan oggi ha un'arma alla quale aggrapparsi è quella cosa lì, è quella magia lì che Seedorf spera di riuscire a riportare. Allora Giovanni Rodetti è questo modulo offensivo di Seedorf, tutti all'attacco, un sacco di giocatori appunto con caratteristiche offensive, compreso Onda che ieri non ha brillato, però ha svuotato l'arsenale dell'attacco, come lo vedi? Ma no, io lo vedo bene dal punto di vista che diciamo così che può essere un po' una fotocopia con quello che aveva provato Leonardo e Seedorf ne faceva parte di quella squadra, sì. Esatto, dunque cerca di dare a un gioco d'attacco un qualche cosa di più, cosciente del fatto che se no siamo decisamente inferiori insomma agli altri, perché in questo momento qua la difficoltà del Milan c'è, facendo questo magari crea qualche problema in più agli avversari, magari qualche volta li creerà anche a noi, perché ad esempio ieri sera ho visto che Kakà oppure Onda o Robinho devono e non sono abituati a un sacrificio, certo, che non sarà certo. Facile. Il senso è quello, ma infatti a me ricorda più che l'esperimento di Leonardo, forse, magari esagero, la prima esperienza di Ancelotti, cioè il grande colpo di genio di Ancelotti quando si inventò quel centrocampo di cui Seedorf ovviamente faceva parte, che era tutto talento, con Pirlo davanti alla difesa, ovviamente sto parlando di molti anni fa, però la grande invenzione di Ancelotti fu creare in un momento di difficoltà quel centrocampo estremamente tecnico. È chiaro che si basava sul sacrificio dei giocatori, Seedorf su tutti, ho detto io sono un numero 10, però se devo giocare, devo rinunciare a qualcosa di mio per giocare con uno schieramento di questo tipo, lo faccio, e con lui molti altri, tutti rinunciarono a qualcosa e nacque un grande Milan. Qui si tratta di capire se ne hanno voglia e se ne hanno. No, poi dobbiamo anche fare un conto sulla qualità del centrocampo e della difesa, perché tu puoi mettere 5 attaccanti che fanno gol a valanga, però se ne prendi uno in più, e ieri sera noi siamo stati fortunati che il Verona ha avuto paura di noi all'inizio, per almeno un tempo non ha giocato, di conseguenza abbiamo potuto fare un po' quello che voleva Seedorf, però attenzione, in questo momento qua noi abbiamo anche una difesa che non è assolutamente straordinaria, dunque in quella occasione invece quando si parla di quell'attacco con Rui Costa, con Inzaghi, certo, Pesenco, Seedorf e tutta questa gente, è chiaro però che avevamo anche una difesa molto più forte, insomma c'era un equilibrio anche dal punto di vista tattico e anche di robustezza del reparto difensivo, in questo momento qua non ce l'abbiamo, dunque. Ma è bene anche essere contenti perché ha avuto coraggio di provarlo, Dunque piano piano magari sistemerà anche. Beh, ma adesso ha credito. A metà campo. Adesso ha credito, l'avesse fatto Allegri, sai che cinema. Tanto è fatta lo scambio, è ufficiale, cioè ci sono visite mediche e tutto, fatto lo scambio Vucinic-Guarin. Non piace né agli Juventini né agli interisti. Ai milanisti piace? Ma non lo so, io non mi sarei privato di Guarin se devo tenere conto, sì, di quello che sta facendo l'Inter. Evidentemente sono venute fuori tutte queste situazioni qua nei confronti del ragazzo quando c'è stato in ballo questo fatto del trasferimento. Vucinic è un ottimo giocatore, anche se va verso una certa età. Guarin mi sembrava quello che cambiasse un po' il volto alla partita dell'Inter quando stava bene e quando non c'erano queste situazioni qua. Non lo so, però sai, dentro nella testa degli altri è difficile entrare, certo. Esatto, dunque se l'hanno fatto vuol dire che hanno necessità anche loro di dare qualche cosa in più in attacco, ma l'Inter credo che non sia il problema forse dell'attacco, è un problema proprio a carattere di gioco. Ma secondo me l'Inter ha problemi da tutte le parti, difesa, centrocampo, attacco, quindi si tratta solo di sì, ma che è un bel duerbi a Milan anche il dir, no? Da noi per l'Inter siamo anche, non dico contenti, però noi siamo disperati e vedere un altro che va in malora siamo contenti anche noi. Ti abbraccio Giovanni Rodetti, grazie. Ciao Giovanni. Ciao, buona giornata a tutti. Allora, primo colpo di culo più che di bacchetta di Seedorf, scrive un ascoltatore. Un altro: vorrei aver visto il Verona con Toni come finiva. Bruno non ha torto. Shift mentale sta a Seedorf come siete dei gran mona, stalpano Rocco. Altro messaggio. Valerio: abbiamo preso l'unico giocatore buono che ha l'Inter, quindi grande scambio, riferito a Vucinic, Guarin. Cosa fatta? Vi ripeto. Marina dalla provincia di Savona. Buongiorno, io sono Marina. Finalmente mi avete chiamato, ma voi le quote rosa sapete cosa sono o no? Come no? La maggior parte da voi sono tutti uomini. Ma è la mia disperazione, Marina, questa. Ma fosse per me, fosse per allora, me. Allora, ascoltate, io vi ho chiamato perché... Primo, vi ascolto sempre, vi sento anche in replica di notte. Vi avevo chiamato una volta tanto sì, tempo fa. Mi ricordo. Poi, visto che il grande mio Genoa, amato da generazioni, ha vinto contro l'Inter, si vorrebbe sentir parlare che il Genoa ha vinto. Sì, ho sentito che avete parlato e che l'Inter ha perso. Non che quasi quasi l'Inter ha perso perché il Genoa, ma non ci ha dato rigore lì. No, ma questo non l'ho detto anche perché non lo penso. Quante cose non hanno mai dato al Genoa? Sì, ma guardi Marina, io questa cosa non la dico perché non la penso. Cioè, è stata una partita strana, dura, violenta sotto certi aspetti, molto equilibrata. Il Genoa l'ha vinta e non ha rubato niente. L'Inter ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate. Sulla storia dei rigori lascerei stare. Poi, partite strane o meno, il Genoa ha vinto, sì. A noi va bene. Io preferisco, per dire, giocare male e vincere che giocare bene e perdere. Sono sì, Genoa, ma ha ragione. E lo farò fino alla morte. Ma ha ragione. Anzi, oltre. Anzi, è il senso di tutto. Cioè, perché ci piace tanto il calcio? Perché permette queste cose. Senta, ma mi tolgo una curiosità, com'è il tempo da quelle parti? Perché sono un po' preoccupato. Piove ancora? Allora ragazzi, questi giorni avete saputo di frane e tutto... Oggi è il primo giorno che è bello. Oh, c'è finalmente il sole. Diciamo, non sta, c'è il sole, insomma, oggi è bello, via. Emergenza. Però certo, frane e roba così, andare verso la Francia non abbiamo avute. Il treno è sempre lì che pende, da un momento all'altro va giù in mare e farà la fine del Concordia. Poi ci vorranno anni per tirarlo su dal mare e via. Sì, momentaccio Marina, ma adesso contiamo di avere un po' di sole. No, purtroppo in Italia non possiamo che sperare nell'aiuto del destino o del cielo, perché di interventi seri non se ne fanno. Quindi quando piove anneghiamo e poi non ci resta che aspettare che esca il sole. Moreno, grazie Marina, io l'abbraccio forte. Moreno, provincia di Macerata, buongiorno. Buon pomeriggio. Senti, io volevo parlare, riallacciarmi il discorso di Gasperini, perché prima stavo guidando la macchina, adesso mi sono fermato per telefonare, cioè lo trovo veramente grottesco. Questo signore fa un mestiere privilegiato, perché fare l'allenatore è comunque un mestiere privilegiato. Allora, io mi domando ancora oggi per quale motivo Moratti l'abbia ingaggiato. Lui si preoccupa in un momento come questo di dire cose come quelle che ho sentito prima in una registrazione, cioè sono io quello che ha subito delle brutte parole perché è stato esonerato ed è stato pagato nell'essere esonerato. Io mi domando come fa sta gente, in un momento in cui la gente si uccide perché perde il lavoro in questo paese, in un momento così delicato, a sproloquiare in questa maniera. Cioè io proprio non le posso concepire queste cose. Ma non la metterei tanto su quello, sulla la storia del lavoro, eccetera. Secondo me Gasperini avrebbe potuto risparmiarsi quelle parole, ma perché non... per far capire che si è arrabbiati, che la si è presa male, che... ci si è sentiti offesi anche professionalmente, perché questo è il senso dell'intervento di Gasperini. Secondo me non poteva dire le stesse cose senza andare a ripescare la storia, a rispolverare il sempreverde, come si diceva prima, argomento di Calciopoli, perché Moreno, Gasperini ha i suoi diritti di sentirsi professionalmente offeso. All'Inter non ha avuto la possibilità di lavorare, non gli hanno preso i giocatori ed è stato mandato via, quindi se è arrabbiato ci può anche stare professionalmente, senza metterla sui soldi, su questi discorsi, ci può stare. Secondo me la scivolata non necessaria è stata quella di dire ma è andato via, lì sono stati capaci di vincere solo dopo Calciopoli, poi si è parzialmente corretto, no, ma lì sono stati capaci di vincere soltanto due allenatori, Mancini e Mourinho, approfittando comunque di una congiuntura favorevole. Ecco, questo mi è sembrato inelegante da parte di Gasp. Detto questo, all'Inter non è stato trattato professionalmente benissimo, e su questo magari è d'accordo anche lei, oppure non è d'accordo perché lei ha detto i soldi gli erano andati. Sì. I risultati, dottore, non sono stati eclatanti. Cioè, se Moratti va a Novara e lui prende due gol a Novara dopo l'ennesima partita persa, cosa doveva fare? La piazza a un certo punto reclama. Allora, Moreno, io sono dell'idea che Gasperini Moratti non l'abbia mai voluto. Lo voleva Branca, è stato in qualche modo imposto da Moratti, è stato sfiduciato dall'inizio, e io sono abituato a vedere in Italia allenatori che, se vengono sfiduciati, se si comincia a dire ma questo forse lo tengo, forse lo caccio, ebbene in quel momento vai a Novara e prendi due palle. Ma perché è sempre stato così? Vale per lui, vale per Allegri, vale per Zaccheroni, per tutti gli altri che hanno fatto questa fine. Ma io credo che sia c'è anche della sfortuna, questo senza dubbio, ma insomma questi sono sempre degli alibi. Ma ieri mi è sembrato che la squadra abbia giocato anche abbastanza bene. La sfortuna sta nel fatto che poteva certamente segnare, hanno sbagliato dei gol, il gol che abbiamo preso c'è qualche colpa, quindi vabbè, quello fa sì che poi ci sia un risultato, però mi è sembrato che la squadra potesse avere poi un risultato diverso alla fine della partita per il gioco che ha fatto. Beh, era molto dispiaciuto certamente, e io credo che sia necessario che arrivi, che venga qua, e credo che lo farà alla fine di questa settimana, perché come è successo con Milan l'altra volta, poi quello serve molto ai giocatori, a tutti, avere di fronte la persona che poi ci sa fare, che sia anche la responsabile, insomma, da una forza diversa. Questo è ciò che ha detto questa mattina Massimo Moratti. Io prima vi ho letto l'agenzia, ora abbiamo sentito anche le sue parole. Vari interisti non proprio contenti che scrivono, ad esempio: la Juventus adesso rischia un altro processo, imputazione circonvenzione di incapace per Franco da Milano. C'è Ulisse che sottolinea come Guarin con Mazzari giocava a punta, quindi meglio avere una punta vera, e se c'è conguaglio può essere utile per D'Ambrosio. Ma ci sarà questo conguaglio? C'è Dario Ricci in redazione, sta seguendo secondo per secondo questa trattativa. Dario. Eh sì, Carlo, la domanda è: conguaglio sì, conguaglio no? Sembra di no, dalle ultimissime dovrebbe essere uno scambio alla pari, quello tra Vucinic e Guarin, e addirittura, pensate, il colombiano sta già sostenendo le visite mediche, e Conte avrebbe voluto portarlo già domani a Roma per i quarti di Coppa Italia contro i giallorossi, ma non ci sono i tempi tecnici. La mancanza del conguaglio però, Carlo, non sembra precludere la strada a D'Ambrosio, che risolverebbe il problema della fascia sinistra per quanto riguarda l'Inter, il torinista D'Ambrosio, perché anche in quel caso l'accordo sembra vicinissimo, quindi un Inter decisamente più attiva sul mercato, stando poi alle valutazioni rispetto a questo scambio comunque clamoroso. Comunque è fatto, è ufficiale? Sì, scambio fatto, Vucinic all'Inter, Guarin alla Juventus. Rimane da sciogliere, ma soprattutto per noi giornalisti, perché credo che per le due società l'accordo sia già fatto, sì, il nodo del conguaglio, ma sembra dal 99% in questo momento che questo conguaglio non c'è, quindi scambio alla pari. Sì, scambio alla pari, perfetto, grazie Dario Ricci. Dunque, questo è lo stato dell'arte sullo scambio del giorno, cioè Vucinic Guarin. Giuseppe da Ragusa, buongiorno. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi ricollego subito a questa notizia perché sono un tifoso juventino e diciamo che insomma sono ben contento che un giocatore come Guarin, con la sua voglia che dimostra in campo, sia diventato giocatore della Juve. Però mi viene da dire, ma non è che questo sia il preludio è quello per che stanno un guardi, addio, è un quello che stanno pensando tutti gli juventini. Addio, secondo lei, di chi? Importante, vedi Pogba o Vidal, ecco, questo è il mio... Ma secondo lei Pogba o Vidal? Perché tutti e due è chiaro la Juventus non li dà. Anche a me sembra uno scambio propedeutico a ciò che succederà in futuro, cioè per... Ma in un futuro prossimo, purtroppo, da quello che secondo me... Lei dice già a gennaio? Non credo. Non lo so se a gennaio, sicuramente a giugno, ma forse addirittura a gennaio, se siamo stati così... diciamo rapidi nel prendere Guarin, non lo so, la mia preoccupazione è questa. In ogni caso, francamente, non saprei cosa augurarmi se l'uno o l'altro, perché sono entrambi in questo ma momento. Io direi, io confermo, lei ha ragione, ma io confermo quanto ho detto prima, e cioè se si tratta di lavorare su una cessione illustre di questo tipo, che può portare molti soldi alla Juventus e che in questo momento è irrinunciabile per il regime del calcio italiano, allora è un discorso che sta in piedi fino a un certo punto, però banalmente sarebbe meglio cedere Vidal, giocatore straordinario che è in questo momento una superstar mondiale ed europea. Però se devo lasciarne partire uno, lascerei partire Arturo, Re Artù. Proverei invece a blindare con i quattrini che mi arrivano il mostro francesino che ovviamente abbiamo appena iniziato a scoprire. Poi il resto non lo so, sono solo ragionamenti scritti nel vento, perché la verità non la conosciamo. Allora, prima di Andrea da Bergamo, io voglio farvi sentire invece un'altra cosa, un altro dei temi di ieri. Abbiamo parlato molto di Luna che è tornata splendente per Matri, e Luna variopinta, compreso il tweet di Calorina, per Antonio Cassano. Sentiamoli tutti e due, Matri e Cassano. Sì, è stato un bel pomeriggio, sognato, perché c'era voglia, visto che era tanto tempo che non passavo un pomeriggio del genere, però solo chi ti vive vicino nei momenti privati, diciamo a casa, sa quello che provo veramente, quindi sa quello che ho provato in questi 6 mesi per me negativi, e diciamo che oggi è stata una bella liberazione, che appunto ci tengo a dedicare questi 2 gol alla mia famiglia, alla mia ragazza e a chi sicuramente in questi 6 mesi mi è stato vicino e ha visto quanto ho sofferto. Ma è un messaggio, io non c'ho da mandare messaggi, il problema è che io sono bravo a complicarmi sempre la vita, adesso va bene, poi mi ricomplico la vita, va bene, io devo pensare solo alla mia squadra, a far bene con la mia squadra, poi il resto ogni volta che faccio bene mi tocca sempre mandare messaggi, sono stanco di mandare messaggi, adesso basta, devo pensare solo alla mia squadra e basta, che è la cosa fondamentale. Beh, vi dico la verità, a me per motivi opposti, praticamente opposti, piacciono da morire tutti e due. Matri perché gran bel giocatore, e un modo che non ha paura di assumersi le responsabilità, perché sono state bellissime, doverose, quasi normali in un mondo perfetto, le dichiarazioni dell'altro giorno quando ha detto no, guardate, il Milan non c'entra niente, l'allenatore non c'entra niente, lì ho sbagliato esclusivamente per colpa mia, quindi tutta responsabilità è mia, ho fatto schifo per colpa mia, ora sono andato via, speriamo di scrivere un'altra storia, c'è riuscito, è bravo lui, sono contento. E Cassano è irrinunciabile, cioè Cassano è personaggio assoluto che a me fa sempre impazzire. Grande, grande, quasi nella comunicazione come sul campo. Andrea da Bergamo, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie di essere stato convocato. Grazie a lei. Sono juventino, volevo dire che sono contentissimo del cambio Vucinic-Guarin, anche perché in previsione andrà via Pogba e con rientro di Verratti nella Juve più Conguaglio, e quindi avremo un tesoretto da investire sulle nuove proposte che verranno fuori. Lei sa già tutto, via Pogba, Guarin che si inserisce in quel centrocampo, arriva Verratti che non rientra ma verrebbe acquistato dalla Juventus, lei dice, e sarebbe un'eccellente idea. Più la vendita di Pirlo a Real Madrid. Più la? Vendita di Pirlo a Real Madrid. Ma questa la vedo dura, cioè se Pirlo rifirma per la Juventus non è un giocatore sul quale puoi fare cassa, anche se ce l'hai sotto contratto, quindi o a Pirlo non viene rinnovato il contratto e tutti i segnali dicono il contrario, oppure se viene rinnovato il contratto a Pirlo vuol dire che Pirlo resta alla Juve, cioè non puoi fare il giochino, lo rinnovo e poi lo vendo perché a Madrid non ha nel naso. Però comunque il disegno che lei ha fatto, poi ci metterei dentro anche, insomma, Vucinic è vero parte, però mi sembra che sul fronte attaccanti anche in prospettiva, tra i vari Berardi, Gabbiadini, Zaz, cioè giovani che è in giro, che la Juventus può riportare a casa, mi sembra che sul fronte sia coperta la signora. Enzo, provincia di Monza. Buongiorno. Volevo dare la mia opinione su quello che ha detto il buon Gasperini su di noi, su Calciopoli. Io ho la stessa età del mio presidente, per il mio presidente sono interista, parlo di Moratti, non di Toghi, perché Toghi non è suo presidente, lo disconosce. Per l'amor di Dio, lasciamo perdere. E no, vabbè, però adesso a quello, Enzo. Purtroppo posso dire purtroppo, lo ma dico perché? Magari per affetto verso il mio presidente, col quale ero in albergo anche alla finale di Coppa dei Campioni a Madrid. Sì. Comunque, io volevo dare una versione forse un po' particolare, cioè il buon Gasperini, pensando da buon juventino di offendere noi interisti, tutto sommato ha detto che quello che pensiamo noi, cioè è vero che l'Inter senza Calciopoli non avrebbe mai vinto niente, sì, perché c'era un sistema in atto che è stato poi giudicato e ci sono state delle condanne che impediva, come pensava il mio presidente Moratti, lo pensavo anch'io avendo frequentato le partite dell'Inter per molti anni, che c'era qualcosa che non andava. Quindi lui paradossalmente ha detto esattamente quello che pensiamo noi, sì. Lui ha dato ragione a noi dicendo che l'Inter senza Calciopoli non avrebbe mai vinto. Enzo, secondo me ha cercato di dar ragione a se stesso, ha cercato di, insomma, di difendersi professionalmente. Mi perdoni, la sua vicenda personale è una cosa, andare a prendere Calciopoli perché c'era del veleno, ma lui probabilmente inconsapevolmente ha detto quello che pensiamo noi. Io sono d'accordo con questo. Quindi un bel applauso a Calciopoli, un bel applauso a Gasp. C'era un sistema talmente marcio che non ci avrebbe mai consentito di vincere. Vede Enzo, non discuto il senso. Allora, prima un ascoltatore mi ha scritto ha sbagliato nella forma, non nella sostanza, eccetera eccetera, sono cose che mi interessano poco. Gasperini è arrabbiato con l'Inter perché crede che abbia mortificato il suo lavoro, e in questo secondo me ha ragione. L'andare a ripescare, a riesumare il sempreverde argomento Calciopoli, secondo me è stato una cosa non di buon gusto. Si poteva e ha l'intelligenza per difendersi in altro modo, o per far valere il suo lavoro, o per esternare la sua rabbia in altra maniera, semplicemente questo. Tanto torniamo a parlarne domani. Franco Piantini, autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, ciao a tutti. Sì. Oh, ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma.